Sentite un'idea, non sarebbe bello per voi ragazzi avere un museo tutto vostro? Un luogo, voglio dire, dove raccogliere le cose curiose e interessanti che trovate, o che fate, o che ricevete in dono. Mamma Jo è troppo buona per lagnarsene, ma deve essere un bel fastidio per lei avere la casa piena di ogni sorta di pasticci, un mezzo chilo di coleotteri in uno dei suoi vasi più belli, per esempio, o un paio di pipistrelli morti inchiodati sulla porta dell'ingresso di servizio. E nidi di vespe precipitanti sulla testa della gente e sassi sparpagliati dappertutto, in quantità sufficiente per lastricare un viale. Non sono molte le donne capaci di resistere a questo stato di cose, non vi pare? Il signor Lori parlava con un'espressione maliziosa negli occhi. I ragazzi cominciarono a ridere, dandosi di gomito, perché era evidente che qualcuno doveva avere scoperto gli altarini, altrimenti come avrebbe potuto conoscere l'esistenza di quegli ingombranti tesori? E dove si potrebbero tenere? Chiese Demi accavallando le gambe e piegandosi in avanti. Nella vecchia rimessa? Ma è tutta sconquassata, non ci sono finestre, non c'è dove posare la roba, è tutta piena di polvere e di ragnatele, cominciava Nat. Aspetta che Gibbs e io vi abbiamo messo le mani e poi vedrai. Verrà lunedì mattina a metterla in ordine, poi sabato prossimo tornerò io per gli ultimi tocchi e inizieremo finalmente un museo, piccolo ma grazioso. Tutti potranno portarci le cose loro e avere un posto per esse. Dan sarà il direttore, perché se ne intende molto, e questo sarà per lui un lavoro tranquillo e piacevole, ora che non può andare troppo in giro. Che bellezza! Esclamò Nat, mentre Dan sorrideva, illuminandosi in faccia, senza trovare una parola da dire, e si stringeva al petto il suo libro, guardando il signor Lori come se lo considerasse uno dei maggiori benemeriti dell'umanità. Devo fare ancora un giro, signore? Chiese Peter quando giunsero al cancello. No, bisogna essere prudenti, se no non potremo più venire. Devo andare a fare un sopralluogo, dare un'occhiata alla rimessa e fare due chiacchiere con la signora Jo prima di partire. E deposto Dan sul divano, a riposare, godendosi il suo libro, lo zio Teddy andò a fare il chiasso coi ragazzi che lo stavano cercando disperatamente. Lasciate le bambine a pasticciare al piano di sopra, mamma Baer si sedette accanto a Dan, ascoltando il vivace racconto della scarrozzata, finché non tornarono i ragazzi, impolverati e accaldati, molto entusiasti del nuovo museo che tutti consideravano la più bella iniziativa dell'epoca. Ho sempre desiderato di sostenere qualche istituzione e comincerò con questa, disse il signor Lori sedendosi su uno sgabello ai piedi di mamma Jo. Ne hai già fondata una. Come chiami tutto questo? Ed ella accennò i visi raggianti dei ragazzi che si erano seduti a terra attorno a loro. Oh, io lo chiamo un giardino Baer molto promettente e sono fiero di farne parte. Lo sapevi che sono stato il primo alunno di questa scuola? Chiese rivolto a Dan, cambiando abilmente discorso perché detestava essere ringraziato per la sua generosità. Credevo che fosse stato Franz, rispose Dan, senza capire bene che cosa avesse voluto dire. Oh no, io sono stato il primo ragazzo di cui mamma Jo si è presa cura ed ero così cattivo che non ha ancora finito l'opera sua, sebbene l'abbia continuata per anni e anni. Ma allora deve essere molto vecchia, disse ingenuamente Nat. No, ma ha cominciato molto presto. Poverina, non aveva che 15 anni quando si è messa a occuparsi di me. E io le ho reso la vita così difficile che è un vero miracolo che non sia tutta rughe, coi capelli grigi e senza più fiato. E il signor Lori la guardò ridendo. Via, Teddy, non voglio che tu ti calunni a questo modo. Protestò Joe accarezzando con l'antico e mutato affetto la bruna testa ricciuta, appoggiata alle sue ginocchia, perché nonostante tutto Teddy era sempre il suo figliolo. È merito tuo se è sorto Plumfield. Fu il mio successo con te, caro, che mi dette il coraggio di tentare l'esecuzione del mio progetto. Quindi i ragazzi possono ringraziare te e chiamare la nuova istituzione Museo Lawrence in onore del suo fondatore. Vero, figlioli? Aggiunse e parve per un attimo la vivace Jo di un tempo. Sì! Urlarono i ragazzi buttando in aria i cappelli, perché sebbene se li fossero levati entrando in casa, secondo le regole, non avevano avuto la pazienza di appenderli all'attaccapanni. Ho una fame da lupi. Non potrei avere un dolcetto? Chiese il signor Lori quando, calmatosi l'entusiasmo, ebbe espresso i suoi ringraziamenti con uno splendido inchino. Corri a chiedere ad Asia la scatola del pan pepato, Demi. Veramente non sta bene mangiare fuori pasto, ma in questa lieta occasione non ci baderemo e faremo un po' di merenda, disse mamma Jo. E arrivata la scatola, ne distribuì generosamente il contenuto ai ragazzi che si misero a sgranocchiare allegramente disposti in circolo. A un tratto, a metà di un boccone, il signor Lori esclamò: «Povero me, ho dimenticato il pacco della nonna!» E precipitandosi fuori, corse alla carrozza, ritornandone subito con un pacchetto bianco che, aperto, rivelò una scelta collezione di bestie, uccelli e graziose cosucce di pasta frolla, ben dorate e inzuccherate. «Ce n'è uno per ciascuno e una lettera che dice a chi sono destinati. Li hanno fatti la nonna e Anna. Tremo all'idea di quel che mi sarebbe successo se mi fossi scordato di consegnarveli.» Poi, fra le risate generali, i dolci furono distribuiti: un pesce per Dan, un violino per Nat, un libro per Demi, una scimmia per Tommy, un fiore per Daisy, un cerchio per Nan, che l'aveva fatto correre 2 volte attorno al prato senza fermarsi mai, una stella per Emil, che si dava delle arie perché studiava astronomia, e il più bello, un omnibus per Franz, la cui grande gioia era di guidare quello di casa. Staffi ebbe un grasso porcellino e i piccoli uccelli, gatti, conigli con occhi neri di Zibibbo. «Ora devo andare. Dov'è la mia chioma d'oro? La sua mamma arriverà di volo se non sarò tornato presto», disse lo zio Teddy quando anche l'ultima briciola fu divorata, «e vi assicuro che non ci volle molto tempo». Le ragazzine erano andate in giardino e mentre aspettavano che Franz comparisse, Joe e Lori stavano sulla porta chiacchierando. «Come va la sventatella?» chiese lui, perché le monellerie di Nan lo divertivano molto e non si stancava mai di far disperare Joe a quel proposito. «Bene, comincia a comportarsi educatamente e a capire quanto fosse sbagliato il suo contegno di prima.» «Ma i ragazzi non la incoraggiano a persistervi?» «Sì, io però non cesso di ammonirla e ultimamente è proprio migliorata molto. Hai visto con che garbo ti ha dato la mano e com'è stata carina con Bess? L'esempio di Daisy fa il suo effetto e io sono sicura che pochi mesi produrranno dei miracoli.» A questo punto le osservazioni di Joe furono interrotte dalla comparsa di Nan, che sbucava a rompicollo dall'angolo della casa, guidando un focoso tiro a 4 di ragazzi, seguita da Daisy che trasportava Bess in una carriola. Senza cappello, con le chiome al vento, fra schiocchi di frusta e sobbalzi del piccolo veicolo, arrivarono in una nuve di polvere come un branco di monelli indiavolati. «Questi sono dunque i ragazzi modello? Fortuna che non l'ho condotta la signora Curtis a vedere la tua scuola, intesa a coltivare il morale e le buone maniere. Non si sarebbe mai riavuta dall'impressione di questo spettacolo», disse il signor Lori, ridendo della prematura soddisfazione di mamma Jo per i progressi di Nan. «Ridi, ridi pure, ma io riuscirò ugualmente, come tu solevi dire quando eri in collegio citando non so quale professore: sebbene l'esperimento non sia riuscito, il principio rimane immutato», rispose Jo, ridendo anche lei. «Ho paura che sia l'esempio di Nan ad agire su Daisy e non il viceversa. Guarda la mia principessina, ha dimenticato tutta la sua dignità e strilla come gli altri. Signorine, che vuol dire questo?» E il signor Lori sollevò la sua bimba da un'imminente catastrofe, perché i 4 cavalli scalpitavano e mordevano il freno attorno a lei, mentre lei brandiva con le 2 mani una grossa frusta. «Facciamo le corse e vinco io», gridò Nan. «E io avrei potuto correre di più, ma avevo paura di rovesciare Bess», strillò Daisy. «Sì, via!» gridò la principessina con un tale schiocco di frusta che i cavalli si dettero alla fuga e scomparvero alla loro vista. «Tesoretto mio, scappiamo da questa banda di monelli prima che ti guastino. Addio, Joe. La prossima volta spero che troverò i ragazzi occupati a mettere toppe agli abiti.» «Oh, non sarebbe un gran male per loro. E ricordati che io non mi arrenderò perché i miei esperimenti falliscono sempre almeno un paio di volte prima di riuscire.» «Tante cose a Amy e alla mia mamma adorata, eh?» gridò Joe mentre la carrozza si allontanava. E l'ultima cosa che vide il signor Lori fu che lei stava consolando Daisy della sua sconfitta, trasportandola lei stessa sulla carriola con l'aria di divertircisi un mondo. Grande fu, durante tutta la settimana, l'eccitazione per i restauri della rimessa che procedevano alacremente, nonostante le continue domande, i consigli e l'intromissione dei ragazzi che per poco non fecero perdere la testa al vecchio Gibbs. ma egli riuscì ugualmente a condurre a termine il suo lavoro e la sera del venerdì tutto fu in ordine. Il tetto riparato, gli scaffali montati, i muri imbiancati, con una grande finestra aperta nel lato posteriore, che lasciava entrare il sole a torrenti e schiudeva allo sguardo il panorama del ruscello, dei prati e delle lontane colline. E sopra il portone era dipinto in lettere rosse Museo Lorenz. Tutta la mattina del sabato i ragazzi fecero progetti circa il modo di disporre i loro tesori. Poi arrivò il signor Lori con un acquario di cui la signora Amy si era dichiarata stanca e che portò al colmo la loro felicità. Il pomeriggio fu dedicato a sistemare la roba e quando ebbero finito di correre, di trasportare, di piantar chiodi, invitarono la signora a visitare l'istituzione. Era certo un bel locale, arioso, pulito, luminoso. Una pianta di luppolo lasciava pendere i suoi campanelli verdi attorno alla finestra aperta. In mezzo alla stanza stava il bell'acquario con alcune delicate piante acquatiche che sporgevano dall'acqua e dei pesciolini d'oro che luccicavano, venendo a galla e rituffandosi. Dai due lati della finestra c'erano file di scaffali pronti a ricevere le curiosità che col tempo si sarebbero trovate. Il grande stipo di Dan era stato collocato davanti al portone chiuso, perché ormai ci si serviva solo della porticina, e sopra di esso era posato un curioso idolo indiano, molto brutto ma molto interessante. L'aveva mandato il vecchio signor Lawrence, insieme con una bella giunca cinese con le vele spiegate, che era stata posta bene in vista sulla lunga tavola in mezzo alla stanza. In alto, dondolante in un cerchio, come se fosse ancora vivo, stava Polly che, morto in età avanzata e imbalsamato con ogni cura, veniva ora offerto dalla signora Joe. Le pareti erano decorate con ogni sorta di oggetti: la pelle di un serpente, un grosso nido di vespe, una canoa di scorza di betulla, una filza di uova di uccelli, festoni di muschio grigio del sud e un ciuffo di capsule di cotone. Un posto era riservato ai pipistrelli morti e un altro a un grosso guscio di tartaruga e a un uovo di struzzo offerto da Demi, sempre pronto a spiegare queste rare curiosità ai visitatori che lo desiderassero. Tante erano le pietre che era stato impossibile accettarle tutte, e quindi solo poche delle più belle erano disposte sugli scaffali in mezzo alle conchiglie e il resto ammucchiato negli angoli, in attesa che Dan avesse il tempo di esaminarle. Tutti avevano voluto offrire qualcosa, anche Silas, che aveva mandato a prendere a casa sua un gatto selvatico imbalsamato da lui ucciso quando era giovane. Era assai tarlato e spelacchiato, ma posto sopra una mensoletta in alto, esposto dalla parte migliore, faceva ancora un bel effetto, perché gli occhi gialli di vetro scintillavano e la bocca mostrava i denti così naturalmente che Teddy tremò di spavento alla sua vista. Quando venne a portare il suo più caro tesoro, un bozzolo sacrificato sull'altare della scienza. Non è bello? Non avevo idea che avessimo tante cose curiose. Io ho dato questo, non fa una bella figura? Si potrebbe guadagnare un mucchio di soldi facendo pagare qualcosa per vederlo. Il suggerimento era di Jack, a conclusione del generale chiacchierio, mentre le persone di casa giravano per il locale. Questo è un museo aperto a tutti. E se ci si fa una speculazione, io cancellerò il mio nome sulla porta, disse il signor Lori, voltandosi così bruscamente che Jack rimpianse di aver parlato. Attenti, attenti! Gridò papà Baer. Parla, parla! Lo sollecitò mamma Joe. Non posso, sono troppo timido, rispose il signor Lawrence. Fatto una bella lezioncina, ci sei avvezza? E cercò di battere in ritirata verso la finestra con l'evidente intenzione di svignarsela, ma lei lo trattenne e disse, ridendo alla vista di tutte le mani sporche che si agitavano attorno: Se facessi una lezione sarebbe sulle proprietà chimiche e depurative del sapone. Su, via, quale fondatore del museo, tu dovresti proprio farci un po' di morale e noi applaudiremo fragorosamente. Vedendo che non c'era modo di salvarsi, il signor Lori alzò gli occhi verso Polly, sospeso sulla sua testa. E come se avesse trovato l'ispirazione nel vecchio uccello brillante, sedutosi sulla tavola, cominciò nel suo modo scherzoso. Ecco, quanto vorrei dirvi, ragazzi. Io desidero che da questa istituzione possiate ritrarre non solo piacere, ma anche vantaggio. E per questo non basta sistemare qui delle cose curiose o graziose. Dovete studiarle in modo da poter rispondere a chi vi rivolge delle domande con conoscenza di causa. Anche a me una volta queste cose piacevano e sarei contento ora di sentirne parlare, perché ho dimenticato tutto quello che sapevo. Beh, non era mica molto, vero, Joe? Ecco qui Dan, che sa un mucchio di cose sugli uccelli, gli insetti e via dicendo. Affidategli la cura del museo e una volta alla settimana gli altri per turno leggano un loro componimento o facciano un discorsetto su qualche animale, minerale o vegetale. È una cosa che piacerà a tutti e io credo che servirebbe a mettervi nella testa molte utili nozioni. Che ne dici, professore? Oh, l'idea mi piace molto e io aiuterò i ragazzi per quanto posso. Ma avranno bisogno di libri per studiare questi nuovi argomenti e ho paura che ne abbiano pochi. Rispose Papa Baer, che pareva contentissimo e progettava delle belle lezioni di geologia, materia che molto gli piaceva. Ci vorrebbe una biblioteca speciale. Questo libro è utile, Dan? Chiese signor Lori accennando al volume che stava aperto presso lo stipo. Oh, sì, dice tutto quello che volevo sapere sugli insetti. L'avevo portato qui per vedere come si fa a fissare bene le farfalle. L'ho fasciato perché non si sciupasse. Spiegò Dan, prendendolo in mano per dimostrare a chi glielo aveva prestato che non lo teneva con poca cura. Dammelo un momento. E con la matita il signor Lori ci scrisse sopra il nome di Dan e aggiunse, posandolo in fondo a uno scaffale d'angolo, dove non c'era che un uccello impagliato privo di coda, ecco l'inizio della biblioteca del museo. Io cercherò altri libri ed Emily terrà in ordine. Dove sono quei libricini che ci piaceva tanto leggere, Joe? L'architettura degli insetti o qualcosa di simile. C'erano battaglie di formiche, api che erano regine, grilli che facevano dei buchi nei nostri vestiti e rubavano il latte e altre storie del genere. Ah, sono a casa, in soffitta. Me li farò mandare, così faremo un bel tuffo nella storia naturale, rispose mamma Jo, sempre pronta ad accogliere ogni idea. Non sarà difficile scrivere su queste cose? Chiese Nat, che odiava i componimenti. Bah, forse in principio, ma presto ci prenderai gusto. Pensa un po', ti piacerebbe che ti assegnassero questo tema, come capitò a una ragazza di 13 anni? Un colloquio fra Temistocle, Aristide e Pericle sulla proposta appropriazione dei fondi della Confederazione di Delo per abbellire Atene? Chiese mamma Jo. I ragazzi gemettero al suono di quei nomi difficili e gli uomini presenti risero dell'assurdità del tema. E la ragazza l'ha svolto? Chiese Demi in tono di pavido rispetto. Sì, ma vi lascio immaginare che cosa è venuto fuori, sebbene fosse una ragazza assai intelligente. Avrei voluto leggerlo, disse il signor Baer. Oh, forse potrò trovartelo. Era una mia compagna di scuola. E mamma Jo aveva un'aria così maliziosa che tutti capirono chi fosse quella ragazzina. L'argomento astruso del tema riconciliò i ragazzi con l'idea di scrivere su cose a loro familiari. Si scelse il pomeriggio del mercoledì per tali conferenze, come si vollero chiamarle, perché alcuni preferivano parlare anziché scrivere. Il signor Baer promise una cartella per riporvi i lavori scritti e mamma Jo disse che avrebbe assistito al corso con molto piacere. Così la brigata delle mani sudice andò a lavarsi, seguita dal professore, che cercava di calmare l'ansietà di Rob, al quale Tommy aveva detto che tutta l'acqua pululava di girini invisibili. Il tuo progetto mi piace molto, Teddy. Bada però di non essere troppo generoso, disse Joe quando rimasero soli. Sai che quasi tutti i ragazzi dovranno guidare da sé la loro barca quando ci lasceranno e non dobbiamo quindi avvezzarli troppo male. Non esagererò. Ma lasciami divertire. Certe volte sono così disperatamente stanco degli affari. Niente mi riposa quanto le malattie dei tuoi ragazzi. Sai che quel Dan mi piace? Non è espansivo, ma ha l'occhio di un falco, e quando avrai fatto tanto di domarlo un poco ti farà onore, vedrai. Sono molto contenta che tu pensi così e ti ringrazio di cuore di essere stato tanto buono con lui, specialmente per questa faccenda del museo. Lo renderà felice mentre è ancora zoppo e mi porgerà l'occasione di addolcire e ammansire questo povero figliolo. così rozzo, inducendolo a volerci bene. Che cos'è che ti ha ispirato questa meravigliosa idea, Teddy? Chiese mamma Jo, dando ancora un'occhiata alla simpatica stanza prima di uscire. Lori prese fra le sue le mani di lei e rispose con uno sguardo che le fece salire agli occhi lacrime di gioia. Cara Jo, io ho provato che cosa significhi essere un ragazzo senza madre e non potrò mai dimenticare quanto tu e i tuoi avete fatto per me in tutti questi anni. Capitolo 12. In cerca di more. Quel pomeriggio d'agosto ci fu un gran tintinnio di secchielli di latta, un gran correre avanti e indietro e continue richieste di roba da mangiare, perché i ragazzi andavano a far provvista di more ed erano in un fermento tale da far credere che si disponessero a scoprire il passaggio di nord-ovest. Su, figlioli, uscite più piano che potete. Rob, per fortuna, è da un'altra parte e non vi vedrà, disse mamma Baer legando sotto il mento di Daisy i nastri del largo cappello e accomodando addosso a Nanni il grembiolone turchino in cui l'aveva avvolta. Ma le cose non andarono lisce perché Rob aveva sentito il trambusto e deciso ad andare anche lui. S'era preparato, senza aspettarsi affatto una delusione. La comitiva si metteva appunto in cammino quando l'ometto cominciò a scendere le scale col suo più bel cappello in testa, un lucido secchiello di latte in mano e il visetto raggiante di soddisfazione. Oh, povera me, ora avremo una scena, sospirò mamma Jo, che certe volte trovava il maggiore dei suoi figli assai difficile da trattare. Eccomi pronto, disse Rob e prese il suo posto nelle file con tale assoluta incoscienza del suo errore che deluderlo appariva una vera crudeltà. È troppo lontano per te, amore mio. Resta a casa a farmi compagnia, se no sarò da sola qui, cominciava la mamma. Tu hai Teddy e io sono un ragazzo grande, posso andare. L'hai detto tu che quando fossi più grande andrei anch'io, e ora sono più grande, insistette Rob, mentre una nube cominciava a oscurargli il visetto. Noi andiamo fino al pascolo grande, lontano lontano. Non abbiamo voglia di rimorchiarti, gridò Jack, che non aveva troppa simpatia per i piccoli. Io non mi farò rimorchiare, io correrò e non resterò indietro. Oh mamma, lasciami andare, voglio empire il mio secchiello nuovo e te lo porterò tutte, via mamma, via, mammina, mammina, vedrai come sarò buono, pregava Robby, guardandola così addolorato e deluso che lei cominciò a intenerirsi. Ma caro piccolo, ti stancherai tanto e avrai tanto caldo che non ti divertirai. Aspetta che ci vada anch'io e allora staremo fuori tutto il giorno e coglieremo quante more vorrai. Ma tu non ci vai, hai troppo da fare, io ne ho abbastanza di aspettare. Piuttosto vado a raccoglierle da solo. Mi piace tanto e voglio riempire il mio secchiello nuovo, che trabocchi! Singhiozzò Rob. La patetica vista dei lacrimoni, che cadendo risuonavano nel prezioso secchiello nuovo, minacciando di empirlo di acqua salata invece che di more, commosse tutte le dame presenti. La mamma dette qualche colpetto affettuoso sulle spalle del piccino desolato. Daisy si offrì di restare a casa con lui e Nan disse col suo solito tono deciso: Lo lasci venire, me ne occuperò io. Se ci fosse anche Franz sarei tranquilla. È tanto assennato, ma sta raccogliendo il fieno con suo padre e non mi fido troppo di voi altri, cominciava mamma Jo. È così lontano, fece osservare Jack. Lo porterei io se potessi venire. Magari fosse, sospirò Dan. Grazie, caro, ma tu devi avere cura del tuo piede. Vorrei poterci andare io. Aspettate un minuto, forse riesco ad accomodare le cose. E mamma Baer corse verso la scala, facendo sventolare energicamente il suo grembiale. Silas si stava appunto allontanando col carro del fieno, ma tornò indietro e acconsentì subito quando mamma Jo gli propose di trasportarli tutti al pascolo e di tornarli poi a prendere alle 5. Questo ti farà perdere un po' di tempo, ma poco male. Ti compenseremo con le torte di more, disse la mamma, che conosceva il suo debole. Il rude volto abbronzato si illuminò di un sorriso ed egli disse allegramente: Se cerca di corrompermi, signora Baer, cedo subito. Poi si ammucchiarono tutti sul carro del fieno e partirono con grande strepito. E dei 12 visi, il più felice era quello di Rob, seduto fra le sue due mammine provvisorie, sorridente a tutto il mondo e sventolante il suo più bel cappello, che la mamma non aveva avuto il coraggio di togliergli, visto che quello era un giorno di festa per lui. Che bel pomeriggio trascorsero, nonostante gli incidenti immancabili di tali spedizioni. Naturalmente a Tommy ne capitò una grossa. Ruzzolò sopra un nido di calabroni che lo punsero, ma avvezzo ai guai, sopportò coraggiosamente il forte bruciore finché Dan suggerì l'applicazione di terra umida che gli calmò molto il dolore. Daisy vide una serpe e fuggendo perse metà delle sue more. Ma Demi l'aiutò a riempire di nuovo il suo secchiello, facendole intanto una bella lezione sui rettili. Ned cascò da un albero e si spaccò la giacca nella schiena, senza soffrire altre fratture. Emil e Jack accamparono diritti rivali su un folto cespuglio, e mentre litigavano, Staffy, svelto e quieto, lo saccheggiò e fuggì a mettersi in salvo sotto la protezione di Dan, che si divertiva a mondo. La stampella non gli occorreva più ed egli era felice di constatare quanto si fosse rinforzato il suo piede, mentre si aggirava per il grande pascolo pieno di rocce e di ceppi d'albero con le piccole creature a lui familiari, brulicanti fra l'erba e i ben noti insetti che danzavano per l'aria. Ma di tutte le avventure di quel pomeriggio, la più emozionante fu quella capitata a Nan e a Rob e rimase fra le loro storie favorite. Dopo un'esplorazione generale del luogo che le era costata 3 strappi nel vestito e una serie di graffi sulla faccia, Nan cominciò a cogliere le more che brillavano come grosse perle nere sul verde dei bassi cespugli. Ma per quanto le sue agili dita volassero, il cestino non si empiva in fretta come avrebbe voluto, quindi continuava a spostarsi di qua e di là in cerca di posti migliori, invece di persistere con calma come faceva Daisy. Rob le andava dietro perché la sua energia gli piaceva più della pazienza della cuginetta e anche lui era ansioso di avere le more più grosse e più buone per la mamma. «Ma più ce ne metto e meno si empie, e sono così stanco», disse fermandosi un attimo per lasciar riposare le sue gambette. Dopotutto, forse la raccolta delle more non era poi quel gran divertimento che s'era figurato. Il sole scottava. Nan saltava di qua e di là come una cavalletta e le more cascavano fuori dal suo secchiello non meno in fretta di quanto ce le mettesse, perché nella lotta coi cespugli il secchiello si rovesciava spesso e volentieri. L'ultima volta che siamo venuti ce n'erano tante di là da quel muro, certi cespugli grossi, e c'è anche una grotta dove i ragazzi accesero il fuoco. Su, andiamoci, riempiamo presto i nostri secchielli, poi ci nasconderemo nella grotta e lasceremo che gli altri ci cerchino, propose Nan, sempre avida di avventure. Rob acconsentì e i due, arrampicatisi sul muro, corsero per i campi in declivio dall'altra parte, finché scomparvero fra le rocce e gli arbusti. Le more abbondavano e finalmente i secchielli furono colmi. Il luogo era ombroso e fresco e una piccola sorgente offerse ai bambini assetati il refrigerio della sua acqua dall'orlo della tazza di muschio. Ora andiamo a riposarci nella grotta e facciamo merenda, disse Nan molto soddisfatta del suo successo. La sai la strada? Chiese Rob. Certo che la so, ci sono già stata una volta, io ricordo sempre i posti. Non hai visto come ho trovato subito il mio bagaglio? Questo convinse Rob, che la seguì ciecamente fra piante e sassi. Dopo molti giri e rigiri giunsero a un piccolo rifugio fra le rocce, dove le pietre annerite mostravano che il fuoco vi era stato spesso acceso. Non è bello qui? Chiese Nan, tirando fuori una fetta di pane imburrato in condizioni assai pietose per essere stata a contatto nella tasca della damigella con chiodi, ami, pietruzze e altre sostanze eterogenee. Sì che è bello. Credi che ci troveranno presto? Chiese Rob, a cui quel recesso ombroso pareva assai tetro e che cominciava a desiderare un po' più di compagnia. No, non credo, perché se li sento mi nascondo e mi diverto a farmi cercare. Forse non verranno. Poco male, so andare a casa da me. È lunga la strada? Chiese ancora Rob, guardandosi le scarpe sgraffiate e bagnate per avere tanto peregrinato. 9 chilometri, credo. Le idee di Nan sulle distanze erano tanto vaghe quanto era grande la sua fiducia nelle proprie forze. Ora forse sarebbe bene andarcene, suggerì Rob. Non mi muovo finché non ho scattivato le mie more. E Nan si accinse a un lavoro che a Rob parve non dovesse finire mai. Ma avevi detto che avresti badato a me, sospirò il bimbo quando il sole cominciò a declinare dietro le colline. Beh, è appunto quello che faccio. Non essere capriccioso, bambino. Fra un minuto andremo, disse Nan, che considerava Robby coi suoi 5 anni un lattante in confronto a lei. E il piccolo Rob rimase seduto guardandosi attorno ansioso, ma aspettandola pazientemente perché, nonostante un oscuro timore, aveva piena fiducia in Nan. Mi pare che presto sarà notte, osservò quasi parlando tra sé e sé, quando una zanzara lo punse e le rane in una palude vicina cominciarono il loro concerto notturno. Oddio, è vero. Via, via, subito, o quelli se ne saranno già andati, esclamò Nan alzando gli occhi dal suo lavoro e accorgendosi improvvisamente che il sole era tramontato. Ho sentito suonare un corno un'ora fa, forse ci chiamavano, disse Rob, seguendo a fatica la sua guida su per il ripido pendio della collina. Da che parte? Chiese Nan fermandosi di botto. Di là, e il bambino accennò col ditino sporco in una direzione completamente sbagliata. Allora andiamo da quella parte e li incontreremo, disse Nan, che fece retrofront e ricominciò a correre fra i cespugli con una certa ansia in cuore, perché vedeva attorno tanti piccoli sentieri e non capiva più per quale fossero arrivati lì. E avanti, avanti, fra tronchi d'alberi e pietre, fermandosi ogni tanto per ascoltare se sentissero il corno, che non suonava più, perché era stato solo il muggito di una vacca che tornava alla stalla. Non mi ricordo di aver visto questo mucchio di sassi, e tu? Chiese Nan, sedendosi su un muretto per riposare un momento e guardarsi attorno. Io non ricordo nulla, io voglio andare a casa. E c'era nella voce di Rob un lieve tremito per cui Nan lo prese gentilmente fra le braccia per riposarlo a terra, dicendogli in tono persuasivo: Ci andiamo più in fretta che si può, caro, non piangere, e quando arriveremo sulla strada ti prenderò in collo. Dov'è la strada? E Rob si asciugò gli occhi per cercarla. Là, dietro quell'alberone, non lo vedi? Che è quello da cui è capitombolato Ned? Già, forse ci hanno aspettati. Sarei contento di tornare a casa sul carro, e tu? E Robby, rasserenato, arrancò verso l'estremità del grande pascolo. No, io preferirei andare a piedi, rispose Nan, che nella quasi certezza di doverlo fare ci si andava preparando. Un'altra marcia faticosa nel crepuscolo che si infittiva e un'altra delusione perché giunti all'albero si accorsero con grande sgomento che non era quello su cui si era arrampicato Ned e che non c'era alcuna traccia di strada. Ci siamo perduti? Balbettò Rob, stringendosi al petto il secchiello nella sua disperazione. Ma no, non credo, non capisco bene da che parte bisogna andare. Forse è meglio chiamarli. E tutti e due si misero a gridare fino a perdere la voce, ma nulla rispose tranne il coro sonoro delle rane. Guarda laggiù, un altro albero grosso, forse è quello, disse Nan, che si sentiva mancare il cuore sebbene facesse la coraggiosa. Mi pare di non poterne più. Ho le scarpe così pesanti che non mi riesce di alzare i piedi, disse Rob, sedendosi su una pietra, sfinito. Allora non c'è che restar qui tutta la notte. Per me, poco male, purché non vengano delle serpi. Io ho paura delle serpi. Io non posso star qui tutta la notte. Oddio, non mi piace essermi perduto. E Rob contrasse il visetto, disponendosi a piangere, quando a un tratto gli venne un'idea e disse in tono di assoluta fiducia: Mammina verrà a ritrovarmi, lo fa sempre. Ora non ho più paura. Ma non sa dove siamo. Mica sapeva che ero chiuso nella ghiacciaia. Eppure mi ha trovato. Son certo che verrà, rispose Rob con tale sicurezza che Nan ne provò un gran sollievo e gli si sedette vicina. Dicendo con un sospiro dettato dal rimorso: Ah, se non fossimo scappati via. Sei stata tu a farmi venire qui, ma non importa, mammina mi vorrà bene lo stesso, rispose Rob attaccandosi alla sua ancora di salvezza quando ogni altra speranza era svanita. Ho una gran fame, mangiamo le nostre more, propose Nan dopo una pausa, durante la quale la testa di Rob aveva cominciato a ciondolare. Anch'io, ma io le mie non le posso mangiare perché ho detto a mammina che le avrei tenute tutte per lei. Ti toccherà pure mangiarle se nessuno viene a cercarci, disse Nan che si sentiva in vena di contraddire. Se resteremo qui molti giorni dovremo mangiare tutte le more che ci sono e poi si morirà di fame, aggiunse con aria saputa. Io mangerò del lauro, ne ho visto un grosso albero e Dan ha detto che gli scoiattoli scavano le radici e le mangiano e a me piace scavare. Ribatté Rob, per niente atterrito dall'idea di morir di fame. Già, E possiamo anche prendere delle rane e cuocerle. Il babbo una volta ne ha mangiate, dice che sono buonissime, aggiunse Nan, che cominciava a trovare una nota romantica anche nell'essersi smarriti in un pascolo pieno di more. Ma come faremo a cuocerle? Non abbiamo fuoco? Non lo so. La prossima volta porterò in tasca dei fiammiferi, disse Nan, piuttosto scoraggiata da quell'ostacolo al tentativo di cucinare le rane. Non si potrebbe accendere il fuoco con una lucciola? Chiese Rob, pieno di speranza, vedendole vagare come scintille alate. Proviamo. E passarono alcuni minuti piacevoli acchiappando le lucciole e cercando di accendere con esse qualche ramoscello verde. È una bella bugia chiamarle mosche di fuoco, quando di fuoco non ne hanno, disse Nan, gettando via con disprezzo uno di quei disgraziati insetti, sebbene avesse brillato del suo meglio e si fosse prestato gentilmente, andando avanti e indietro sui ramoscelli ad assecondare gli ingenui sperimentatori. Mammina ci mette tempo a venire, osservò Rob dopo un'altra pausa, durante la quale avevano guardato le stelle sulla loro testa, sentito il dolce aroma delle felci schiacciate e ascoltato la serenata dei grilli. Chissà perché il signore ha fatto la notte. Il giorno è tanto più simpatico, disse Nan pensierosa. Per dormire, rispose Rob sbadigliando. E allora dormi, disse Nan stizzita. Io voglio il mio lettino. Oh, come vorrei vedere Teddy, gridò Rob, alla cui mente il pigolio degli uccelletti tranquilli nel nido richiamava dolorosamente l'idea della casa. Non credo che la tua mamma riuscirà mai a trovarci, disse Nan, che cominciava a lasciarsi vincere dalla disperazione perché era incapace di ogni paziente attesa. È così buio che non ci vedrà. Anche nella ghiacciaia era tutto nero e io avevo tanta paura che non riuscivo a chiamarla, eppure mi ha visto. E mi vedrà anche ora, per quanto sia buio, ribatté Rob, pieno di fiducia, alzandosi per osservare attraverso l'oscurità se arrivasse l'aiuto che non gli era mai mancato. Eccola, eccola! Gridò. E corse con tutta la velocità consentitagli dalle sue gambette stanche verso una figura nera che si avvicinava lentamente, ma ad un tratto si fermò, poi tornò indietro incespicando e strillando tutto spaventato. No, è un orso, un grosso orso nero! E nascose la faccia contro le sottane di Nan. La bimba ebbe un attimo di terrore. Persino il suo coraggio venne meno all'idea di un orso in carne ed ossa e stava per darsi la gambe quando un timido muggito trasformò la sua paura in allegria. È una mucca, Robby, disse ridendo, la bella mucca nera che abbiamo vista oggi. La mucca sembrava trovare strano quell'incontro con due bambini nel suo pascolo dopo che era scesa la notte, e da quell'amabile bestia che era si fermò per rendersi conto del fatto. Si lasciò carezzare da loro, guardandoli coi suoi occhi così dolci che Nan, cui solo un orso poteva far paura, fu presa dalla voglia di mungerla. Silas mi ha insegnato come si fa e le more col latte devono essere di molto buone, disse rovesciando le sue nel cappello e accingendosi coraggiosamente al nuovo compito, mentre Rob la stava a guardare ripetendo per suo ordine la poesiola di Mamma Oca. Dammi il latte, bella mucca, dammi il latte, vaccherella, e ti faccio un vestitino tutto sete argento fino. Ma l'immortale ritmo fece poco effetto, perché l'amabile mucca era già stata munta e non poté dare ai bambini assetati che un mezzo bicchiere di latte. Va via, vecchiaccia buona a nulla, gridò l'ingrata Nan dandosi per vinta, e la povera Muli si allontanò sorpresa con un mite muglio di rimprovero. Beviamone un sorso per uno e poi facciamo due passi, se no ci addormentiamo, e la gente sperduta non deve dormire. La sai la storia di Anna Lee, in quel bel racconto? Si addormentò sotto la neve e morì. Ma ora di neve non ce n'è, e qui è così bello e caldo, protestò Rob, che non era dotato della fervida fantasia di Nan. Non importa, faremo un giretto e chiameremo ancora. Poi, se non viene nessuno, ci nasconderemo sotto i cespugli, come Pollicino e i suoi fratelli. Ma il giretto fu molto breve perché Rob aveva tanto sonno che non si reggeva in piedi e cascava così spesso che Nan perse la pazienza, sconcertata com'era dalla responsabilità assuntasi. Se caschi un'altra volta, te le do, disse rialzando il povero ometto teneramente perché Nan abbaiava più che non mordesse. No, ti prego, è colpa delle scarpe, sdrucciolano sempre. E Rob soffocò virilmente il singhiozzo che gli saliva alle labbra, aggiungendo con una dolente rassegnazione che commosse il cuore di Nan. Se le zanzare non pinzassero tanto, potrei dormire finché non viene mammina. Mettimi la testa in grembo e ti coprirò col mio grembiale. Io non ho paura della notte, disse Nan, sedendosi e cercando di persuadersi che l'oscurità e i frusci misteriosi che la circondavano non le facevano né caldo né freddo. Svegliami quando arriva, disse Rob, e 5 minuti dopo era bello addormentato con la testa sulle ginocchia di Nan sotto il grembiale. La ragazzina rimase seduta una quindicina di minuti, guardandosi attorno ansiosamente, con l'impressione che ogni secondo fosse un'ora. Poi una pallida luce cominciò a brillare sulla cima delle colline ed ella pensò: la notte deve essere finita e viene l'alba. Mi piacerebbe veder sorgere il sole. Bisogna che stia sveglia e quando farà giorno troveremo la strada di casa. Ma prima che il faccione rotondo della luna facesse capolino sopra il colle per distruggere la sua speranza, Nan s'era addormentata, riversa sopra un giaciglio di felci, sprofondando in un sogno di notte, di mezza estate, fatto di lucciole, di grembiali turchini, di montagne di more e di Robby intento ad asciugare le lacrime a una mucca nera che singhiozzava: «Voglio andare a casa, voglio andare a casa!» Mentre i due bimbi dormivano pacificamente, cullati dal monotono ronzio di molte amichevoli zanzare, a casa regnava la massima agitazione. Il carro del fieno era arrivato alle 5 e tutti, tranne Jack, Emil, Nan e Rob, si erano trovati alla barriera. Invece di Silas guidava Franz, e quando i ragazzi gli dissero che gli altri tornavano a casa attraverso il bosco, ebbe l'aria seccata. Avrebbero dovuto lasciar venire Rob col carro, sarà stanco morto dopo una simile camminata. Ma la strada è più corta e poi lo prenderanno in collo, disse Staffy, che aveva fretta di arrivare per la cena. Siete sicuri che Nan e Rob siano andati con loro? Certo, li ho visti verso le 5 scavalcare il muro e filar via, e Jack si è voltato a gridare che passavano dall'altra parte, spiegò Tommy. Benissimo, allora salite su. E il carro partì, carico di bimbi stanchi e di secchielli pieni. La signora Jo si fece seria quando sentì della divisione della comitiva e rimandò indietro Franz con Toby alla ricerca dei piccoli per riportarli a casa. Avevano finito di cenare e sedevano al solito nel vestibolo quando Franz tornò accaldato, impolverato e ansioso. «Sono arrivati?» gridò di lontano, giunto a metà del viale. «No!» E la signora Jo balzò dalla sedia, così allarmata che tutti si alzarono raggruppandosi attorno a Franz. «Non li ho potuti trovare in nessun luogo», cominciava a dire. Ma un forte «Olà!» li fece tutti sobbalzare. Un minuto dopo comparvero Jack ed Emil. «Dove sono Nan e Rob?» gridò la signora buttandosi addosso a Emil, che credette dapprima sua zia improvvisamente impazzita. «Non lo so, non sono venuti a casa con gli altri?» «No, George e Tommy hanno detto che erano con voi.» «Ma neanche per idea, non li abbiamo visti. Si è fatta una nuotata nello stagno e siamo tornati attraverso il bosco», disse Jack spaventato. «Chiamate il signor Baer, prendete le lanterne e dite a Silas che ho bisogno di lui.» La signora Jo non disse altro, ma essi capirono che cosa intendeva e volarono a eseguire gli ordini. 10 minuti dopo il signor Baer e Silas si dirigevano verso il bosco mentre Franz galoppava sulla strada montato sul vecchio Andy per andare ad esplorare il grande pascolo. La signora Jo prese qualche cibo dalla tavola e una bottiglietta di cognac dall'armadio, delle medicine, afferrò una lanterna e, ordinando a Jack e a Emil di seguirla e agli altri di non muoversi, trottò via in groppa a Toby, senza neppure prendere il cappello e lo scialle. Sentì che qualcuno le correva dietro, ma non disse nulla finché, essendosi fermata per chiamare e tendere l'orecchio a una risposta, la luce della sua lanterna cadde sulla faccia di Dan. «Sei tu? Ma io avevo detto a Jack di venire.» E stava per rimandarlo indietro, sebbene avesse tanto bisogno di non essere sola. «Sono io che non ho voluto. Lui ed Emil non avevano ancora cenato e io avevo più voglia di loro di venire», disse prendendole la lanterna dalle mani e sorridendole con uno sguardo così fermo negli occhi che ella pensò, per quanto fosse un ragazzetto, di avere in lui qualcuno su cui poteva contare. Balzò dunque a terra e lo fece salire su Toby, nonostante che egli protestasse di voler andare a piedi. Poi si rimisero in cammino, sulla strada polverosa e solitaria, fermandosi ogni tanto per lanciare un richiamo e ascoltare col fiato sospeso, se una vocetta rispondesse. Giunti al grande pascolo, videro altre luci che vagavano di qua e di là come fuochi fatui e udirono la voce del signor Baer che gridava: Nan! Rob! Rob! Nan! In ogni direzione. Silas fischiava e chiamava col suo vocione. Dan correva qua e là sul dorso di Toby, che pareva immedesimarsi delle circostanze perché passava con insolita docilità per i posti più impervi. Spesso la signora Jolly faceva tacere tutti, dicendo con un singhiozzo represso: «E il chiasso li può spaventare, lasciate che li chiami io, Robby riconoscerà la mia voce». E allora gridava in tutti i toni più teneri l'amato nome che l'eco ripeteva dolcemente, e il vento sembrava voler trasportare lontano per aiutarla, ma nessuna risposta veniva. Il cielo s'era ora rannuvolato e la luna appariva solo ogni tanto squarciando le nubi. Lampi di calore balenavano di quando in quando e un lontano brontolare di tuono annunziava l'avvicinarsi di un temporale estivo. «Oh, il mio Robby!» ripeteva con voce lamentosa la signora Joe, vagando qua e là simile a un pallido spettro, seguita da Dan come da una lucciola fedele. «Che dirò al padre di Nan se le è accaduta una disgrazia? Perché ho lasciato andare così lontano il mio tesoro? Fritz, non senti nulla?» E al no doloroso della risposta si torse le mani con tale disperazione che Dan balzò già dalla groppa di Toby e, legate le briglie alle sbarre, disse col suo modo risoluto: «Possono essere andati alla sorgente, vado a vedere». Saltò oltre il muretto e si allontanò così svelto che ella poteva a stento seguirlo. Ma quando giunsero sul posto, egli abbassò la lanterna e le mostrò tutto felice le impronte dei piccoli piedi sul terreno molle. Ella si buttò in ginocchio per esaminarle e poi balzò in piedi gridando: «Sì, sono le impronte degli stivaletti del mio Rob. Andiamo di qua, devono aver proseguito in questa direzione». Che ricerca faticosa! Ma come se un istinto inesplicabile avesse guidato l'ansiosa madre, ecco che Dan con un grido raccolse qualcosa di luccicante che giaceva sul sentiero: il coperchio del nuovo secchiello di latta lasciato cadere nel primo sgomento dal bimbo che si credeva sperduto. Mamma Jo se lo strinse al petto, baciandolo come una cosa viva, e quando Dan stava per lanciare un allegro richiamo agli altri, glielo impedì, dicendo mentre correva: «No, tocca a me trovarlo. Sono stata io a lasciarlo andare e voglio essere io a renderlo a suo padre». Poco più avanti apparve il cappello di Nan e, dopo essere passati più di una volta davanti al posto dove erano, scopersero i bimbi nel bosco, profondamente addormentati. Dan non dimenticò mai la scena che la sua lanterna illuminò quella notte. Credeva che Mamma Jo si sarebbe messa a gridare, invece ella mormorò solo «Shh!» e, sollevato piano piano il grembiale, scoprì il visetto rubicondo che vi si nascondeva sotto. Le labbra macchiate dal sugo delle more erano semiaperte e ne usciva il calmo respiro. I capelli biondi si attaccavano umidi sulla fronte sudata e le due manine grassocce tenevano strette il secchiello ancora pieno. La vista delle more, conservate gelosamente per lei, attraverso tutte le vicende di quella notte, parve commuovere profondamente Mamma Jo, che a un tratto sollevò fra le braccia il suo bambino piangendo di tenerezza, ma con tale passione che egli si svegliò. Rimase dapprima sbalordito, poi il ricordo venne, e allora si strinse a lei, dicendo con un riso di trionfo: «Oh, lo sapevo che saresti venuta! Oh, mammina, avevo tanta voglia di te!» Per un istante si baciarono, tenendosi stretti, dimentichi di tutti e di tutto. Perché, per quanto perduti, sporchi e sfiniti possano essere i figli traviati, le mamme sanno perdonare e dimenticare ogni cosa, mentre li stringono fra le loro braccia protettrici. Felice il figlio la cui fede nella mamma rimane immutata e che durante tutte le sue peregrinazioni ha conservato un pegno d'affetto per ricompensare il suo amore tenero e coraggioso. Dan, frattanto, aveva sollevato Nan dal suo giaciglio e, con una delicatezza che nessuno, tranne Teddy, aveva prima notata in lui, calmava il suo spavento all'improvviso risveglio, asciugandole le lacrime, perché anche Nan piangeva di gioia, Tanto era bello vedere un volto amico e sentire un braccio forte che la sosteneva dopo quelli che erano sembrati secoli di solitudine e di paura. Povera piccola, non piangere, ora sei al sicuro e nessuno ti dirà una parola di rimprovero, disse mamma Jo, includendo anche Nan nel suo largo abbraccio e coccolando i due bimbi come una chioccia che raccolga i pulcini sperduti sotto le sue ali materne. È stata colpa mia, ma ne sono tanto pentita. Ho cercato di prender cura di lui, l'ho coperto, l'ho lasciato dormire, non ho toccato le sue more, eppure avevo tanta fame, e non lo farò mai più, lo giuro, mai più, mai più. Singhiozzava Nan, perduta in un mare di rimorsi e di gratitudine. Ora chiamali pure e andiamo a casa, disse mamma Jo. E Dan, salito sul muretto, fece risuonare lontano la lieta parola. Trovati! Le luci erranti accorsero danzando da ogni lato e si raccolsero attorno al piccolo gruppo fra i ciuffi di felci. Quanti abbracci, quanti baci, e chiacchiere, e pianti, di che sbalordire le lucciole ed entusiasmare le zanzare, che ronzavano freneticamente, mentre una nuvola di falene accorreva alla festa, e le rane ci davano dentro a gracidare, come se non potessero esprimere la loro soddisfazione con sufficiente energia. Poi si avviarono verso casa. Strana brigata, perché Franz era galoppato avanti a portare la buona notizia. Dan e Toby aprivano la marcia, poi veniva Nan fra le forti braccia di Silas, che, considerandola la più svelta bricconcella che avesse mai vista, la fece disperare per le sue birichinate durante tutto il tragitto. Papà Baer non vuole lasciar portare da nessuno il suo Rob, e l'ometto, riposato dal sonno fatto, chiacchierava allegramente fra le sue braccia, sentendosi un eroe, mentre la mamma gli camminava al fianco, toccando ogni parte del suo prezioso corpicino cui potesse giungere senza mai stancarsi di sentirlo ripetere: «Lo sapevo che saresti venuta!» o di vederlo chinarsi per baciarla e metterle in bocca una grossa mora perché le aveva raccolte tutte per lei. La luna tornò a brillare proprio mentre giungevano al viale e tutti i ragazzi corsero loro incontro gridando, così che le pecorelle smarrite arrivarono in salvo, portate in trionfo, e approdarono nella stanza da pranzo dove i due bimbi, poco romanticamente, chiesero da mangiare a preferenza di baci e carezze. Vennero fatti accomodare e serviti di pane e latte e tutti fecero circolo attorno a loro. Nan recuperò il suo spirito e prese a narrare i pericoli corsi con grande soddisfazione ora che erano passati. Rob, che pareva tutto intento a mangiare, posò a un tratto il cucchiaio e scoppiò in singhiozzi. Tesoro, perché piangi? Chiese la mamma, che gli era sempre rimasta vicina. Piango perché mi ero sperduto, piagnucolò lui, tentando invano di spremere una lacrima. Ma ora ti abbiamo ritrovato. Nan dice che non hai pianto quando eravate laggiù soli, e io ero contenta che tu fossi stato un bambino coraggioso. Allora ero così occupato ad avere paura che mi mancava il tempo di piangere. Ma ora invece ne ho voglia, perché non mi piace di essere sperduto, spiegò Rob, lottando contro il sonno, l'emozione e un boccone di pane inzuppato nel latte. I ragazzi, a quel curioso modo di rimettere il tempo perduto, scoppiarono in una tale risata che Rob si chetò per guardarli, e l'allegria fu così contagiosa che, dopo averli fissati stupito, si mise a ridere anche lui, battendo il cucchiaio sulla tavola come se si divertisse immensamente.